La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, la Rosa Purpurea torna dopo tutta un'estate nella quale siamo stati insieme con tutto il cinema estivo, però questa è la puntata del grande rientro, non solo quello di molti italiani dalle località di vacanza, ma anche quello dei tanti film, dei buoni film nei cinema, e anche il grande rientro della Mostra del Cinema di Venezia, che è in pieno corso di svolgimento. Ne parleremo durante questa nostra puntata con il nostro Boris Sollazzo, che è lì, e vi racconteremo anche quello che si muove nelle sale di nuovo, perché ci sono almeno un paio di potenziali blockbuster di inizio stagione e poi tanto buon cinema indipendente, quindi una settimana sicuramente interessante. Cominciamo a farci un po' la bocca con i nostri titoli di testa. Anno 2154, un'umanità divisa in due. I poveri e gli umili sulla Terra, dove imperano caos e malattie. I ricchi e i potenti su una stazione spaziale che è un paradiso. Ma la rivolta di un uomo cambierà le cose. È la trama di Elysium, il primo blockbuster annunciato della nuova stagione, con Matt Damon e Jodie Foster. Grande cast anche per In Trans, film di rapina e ipnosi diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting e di The Millionaire. Un quadro di inestimabile valore viene rubato, ma il ladro, a causa di una botta in testa, non ricorda più dove l'ha nascosto. Ci penserà un avvenente ipnotista, con James McAvoy, Vincent Cassel e Rosario Dawson. Molto cinema indipendente nel weekend del grande rientro. Dalla Francia arriva Starbuck, storia di un padre inseguito dai fantasmi dei 533 figli che ha concepito artificialmente. Dall'Argentina, Infanzia clandestina racconta la vita negata a un bambino di 12 anni, figlio di attivisti antidittatura. E dall'Italia, escursione nel noir per Silvio Orlando, protagonista della Variabile umana. E intanto è in pieno svolgimento la 70ª mostra del cinema di Venezia. Collegamento con Boris Sollazzo, che è al Lido, per parlare dei primi film visti. E sul futuro del format del festival, la Rosa Purpurea ha sentito il direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera. E allora, questi sono i contenuti della trasmissione. Noi a questo punto cominciamo subito e salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris! Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo lì, in versione gondoliere, no, versione gondoliere o pontoniere, specialità lavorative acquatiche veneziane, no? Il nostro Boris è lì al Lido, dove non c'è neanche un tempo bellissimo in questi primi giorni di festival, per la 70ª mostra del cinema di Venezia. Noi ne parleremo, Boris, più in là durante la nostra trasmissione, di quelli che sono i primi due, tre contenuti, stimoli che arrivano dalla Laguna, però prima affrontiamo quelle che sono le novità che la gente troverà in sala, appunto in questa puntata che abbiamo chiamato il grande rientro nelle sale cinematografiche delle proprie città. Dicevo in apertura, un paio di potenziali blockbuster per attori, per produzione, per grandeur, magari poi riusciti o meno, questo lo vediamo insieme. Cominciamo a parlare di un film, genere fantascienza, ancora una volta una terra impoverita, imbarbarita, dalla quale scappare. Si era visto molte volte anche negli ultimi anni questa visione catastrofista di un futuro prossimo venturo. Qui siamo nel 2154, sulla Terra poveri reietti, e invece quelli fighi, quelli che hanno i soldi, che sanno come cavarsela, se ne sono andati su un pianeta parallelo, in una zona parallela che si chiama Elysium, una vera e propria stazione spaziale che sembra però un pianeta. Ed Elysium è anche il titolo del film, interpretato da Matt Damon e Jodie Foster, solo per dire due dei nomi più importanti. Noi sentiamo il trailer e poi ne parliamo. Nel giro di 5 giorni lei morirà. Grazie per il suo servizio. Su Elysium si guarisce da questa roba. Max, io ti posso far arrivare lassù. Portami la sega d'ossa! Io qui non ci muoio. Che cazzo mi avete fatto? Ti abbiamo dato una speranza. Chiunque lo possieda ha il potere di riprogrammare l'intero sistema. Sta molto male, Max. Devi portarla lassù. Possiamo salvare tutti. Boris, allora, questo era Elysium, dicevo, un canovaccio già visto anche recentemente, mi ricordo In Time, per esempio, insomma, questa terra, oddio cosa ne abbiamo fatto, abitata o disabitata a seconda delle circostanze, e un altro posto, un altro luogo nel quale andare. Qui in una sorta di visione partigiana di Matt Damon. Sì, assolutamente, Neil Blomkamp ormai lo conosciamo, possiamo definire la sua una fantascienza di classe, nel senso che è fatta con gran classe di regia, ed è fatta raccontando la lotta di classe nel futuro, in un futuro distopico, in un futuro difficile. In District 9, il distretto 9 di Johannesburg era abitato dai Reietti, che in quel caso erano degli alieni. In questo caso invece c'è addirittura la divisione, che spesso si vede nelle città, portate tra un pianeta e un satellite, quindi tra Elysium e il pianeta dove vive questo Matt Damon. Come al solito Blomkamp racconta un antieroe che non ha nessuna intenzione di salvare il mondo, di salvare e al massimo vuole salvare se stesso. Come al solito costruisce una trama estremamente essenziale, semplice, fatta di uno sviluppo lineare e con un protagonista su cui finiscono sulle spalle destini sempre più importanti, una storia, diciamo, esemplare, simbolica, però raccontata con un gran ritmo, raccontata con una sceneggiatura solida, raccontata in modo che comunque non puoi fare a meno di non appassionarti. In questo caso poi c'è anche una Jodie Foster molto buona, forse non è così geniale come District 9, non ha quell'effetto sorpresa di un modo di raccontare il genere in maniera completamente diversa. Qui è tutto più prevedibile, però di sicuro, soprattutto nella seconda parte, si rimane coinvolti ed è sempre comunque molto interessante, come diciamo, questa visuale sociopolitica che si innesta pesantemente sulla fantascienza, facendolo diventare quasi un genere civile in qualche modo. Quindi direi che Elysium va assolutamente promosso. La rosa purpurea. E allora, abbiamo annunciato In Trans, altro film di potenziale commerciale alto, anche per la presenza di attori come James McAvoy, Rosario Dawson, bellissima, Vincent Cassel, tra l'altro l'uomo della settimana, ai lui per il divorzio, la separazione da Monica Bellucci, e siamo in zona rapine con fronzoli, con tanti fronzoli in questo caso. Ne avevamo visti altri anche recentemente, di film appunto che univano un po' la magia, la rapina, eccetera. Qui invece è l'ipnosi, il modo in cui uscire dall'impasse. Cosa succede in Trans, che è l'adattamento cinematografico di un TV movie di una decina d'anni fa? Dipendente di una casa d'aste, di un'importante casa d'aste, appunto James McAvoy, mette le mani in pasta con una banda di rapinatori per organizzare una rapina di un quadro di grandissimo valore durante una battuta d'asta. Il colpo va in qualche maniera, lui cerca di fare il furbo, ma cosa succede? Che dopo il colpo perde la memoria per una botta ricevuta, perde la memoria e non si ricorda più dove ha lasciato il quadro. I rapinatori non sono molto d'accordo con questa versione dei fatti e cercano di estirpare questa verità, dove sta sto quadro così, così importante e così di valore, e chiaramente lo prendono di mira. Allora sentiamoci un po' una scena dalla rapina. Un'offerta al telefono, 26 milioni, 26 al telefono, 27, la signora sul corridoio, Bob, 27 milioni e 500.000 sterline, ci siamo! Ultima occasione, sto per battere il martello, vendo per 27 milioni e 500.000 sterline, venduto! Ma niente! A terra, a terra! Ecco, insomma, avete sentito, la rapina sì, venduto, ma poi anche rubato. Dicevamo, l'ipnosi per uscire dalla stagnazione, e l'ipnosi per mano e per voce di una sua dente ipnotista, si dice così, maestra dell'ipnosi, ovvero Rosario Dawson, che riesce in qualche modo a scavare pian pianino dalla testa di James McAvoy quelli che sono i dettagli giusti. La cosa però procede piuttosto lentamente e soprattutto procede cercando di depistare la banda di rapinatori che, sentendosi furba, mette cimici ovunque e cerca di capire, ma basta dare le informazioni sbagliate. Adesso deve chiudere gli occhi e immaginare di essere in un ascensore ampio, con pareti di velluto e un'elegante moquette, e mentre le porte si chiudono, le sue palpebre diventano più pesanti, e mentre i tuoi occhi diventano più pesanti, e l'ascensore comincia a scendere. Ti rendi conto che questo è l'ascensore del rilassamento. Sei al sicuro qui. Stai comodo. Rilassato. Non voglio più parlare. Voglio parlare con gli uomini che ascoltano. E insomma, la signora aveva capito tutto. Boris, in trance ho qualche perplessità, nel senso che mi sembra un film con gli ingredienti giusti, con i cambiamenti di strada improvvisi che servono a tenere comunque viva la storia, ma forse Danny Boyle stavolta ci ha messo un po' troppo carico, cioè mi sembra che il film gli sfugga un po' di mano in certi momenti e la narrazione proceda un po' a scatti. Secondo me lui ha questa caratteristica principale, che passa da momenti di genialità ad altri di totale cialtroneria, il che rende anche bene l'idea del motivo per cui spesso e volentieri ci siano pareri così divergenti, non solo sui suoi film ma proprio sulla sua cinematografia, perché ha queste due spinte molto forti che in trance sono evidenti. Il problema è che in trance, a differenza di altri film, la parte autoriale sembra molto vacua, mentre quella diciamo commerciale, trash chic, molto esagerata ed eccessiva, è particolarmente pronunciata. Si parte dalla scelta del cast. Vabbè, Vincent Cassel, con tutto il rispetto che abbiamo per l'attore francese, che è un attore straordinario, continua come un po' un De Niro europeo a scegliere solo ruoli improbabili. Questo è uno dei tanti, e lui si impegna pure, lo cerca di renderlo credibile, ma senza nessuna speranza. Avere Rosario Dawson come ipnotista penso che sia una delle più grandi contraddizioni esistenti, cioè nessuno si addormenterebbe, nemmeno se lo obbligassero, guardando Rosario Dawson. E James McAvoy credo che sia il ladro, o comunque il protagonista di un heist movie meno carismatico che si sia visto in questo momento. In più succede tutto il contrario di tutto nel film. Cambiano i protagonisti, cambia il senso del thriller, quindi cambiano anche le pedine, il posizionamento di queste pedine. Succede veramente di tutto. Verso la fine traspari, sogni, realtà che si innesta nel sogno. C'è una tale confusione che potrebbe valere tutto. Il problema di Danny Boyle è proprio questo: secondo me non si sa fermare, non ha il senso della misura, e quando in un film c'è poco altro se non la trovata visiva e narrativa, ovviamente questo viene fuori in tutta la sua violenza e allo stesso tempo in tutta la sua vuotezza. E quindi francamente in trance mi sembra una delle delusioni della stagione, in questo senso. Assolutamente, almeno di questo inizio stagione. Tra l'altro verso il finale Danny Boyle cerca, a mio modo di vedere, di buttarci dentro un filo di Inception, tanto così per stare sul pezzo, e poi alla fine ti rendi conto che insomma il minestrone impazzisce. Allora, semi bocciato possiamo dire questo in trance tranquillamente. Prepariamoci a un'infornata di film indipendenti, perché questi erano i due possibili dominatori o semidominatori, perché in giro c'è un Monster University che il suo lavoro lo sta ancora facendo e secondo me lo farà ancora questa settimana di rientro con i bambini che tornano a casa, eccetera. Ma dicevo, questi sicuramente i due film dai quali ci si aspetta di più al botteghino. Però cinema indipendente in questa settimana, weekend di fine agosto, è anche piuttosto interessante. Toccata e fuga su tre o quattro film. Boris, cominciamo con Starbuck, che è un film francese che non c'entra niente con la famosa catena di caffè, ma è il nome d'arte, diciamo così, di un signore di 42 anni, David, che qualche anno prima aveva inseminato artificialmente 533 ragazzi, cioè il suo seme, di cui lui era donatore abbondante evidentemente, era stato utilizzato per far nascere 533 bambini. Oggi, 20 anni dopo, David si trova ad avere a che fare con questo suo ingombrante passato. David Wozniak. Tra il 1988 e il 1990 lei ha fatto il donatore di sperma con lo pseudonimo di Starbuck alla clinica La France. 693 donazioni nell'arco di 23 mesi. Lei è il genitore di 533 figli. Io non sono David Wozniak. Sperando di convincerti a rincontrarli, i 142 figli vogliono che tu sappia chi sono. I profili dei tuoi 142 figli. Cosa farebbe una persona normale in questa situazione? Una persona normale non si troverebbe in questa situazione. È impossibile, ma posso diventare il loro angelo custode. Non è la cosa giusta! Smettila di seguire i tuoi figli! Boris, Patrick Ward è il protagonista, a mio modo di vedere, azzeccatissimo di questa vicenda, un po' working class alla Ken Loach, ma insomma le prese con questa con l'immaterializzarsi di questa sua paternità, diciamo così, per inseminazione artificiale, e anche con la voglia di una paternità reale. Esatto, per me è un film riuscitissimo, ha questa capacità incredibile di utilizzare tre generi e mixarli alla perfezione. Il genere lavorista, locciano, di cui è impregnata, diciamo, l'immaginario del film, le facce e anche determinati paesaggi, quello della commedia surreale, anche se la storia è verissima, è accaduta sul serio, ma ovviamente nel momento in cui la racconti al cinema diventa qualcosa che per forza di cose ti porta al di là della realtà, anche se reale è stato, e poi quella commedia all'apato in cui i quarantenni sono un po' bamboccioni, un po' disperati e cercano un loro senso nella vita. Lui ha 42 anni, sta con una poliziotta che vorrebbe avere di più. Lui è un eterno Peter Pan, è un eterno figlio, e questa paternità parossistica inevitabilmente lo porterà a suo modo, e questo è secondo me il segreto del film, a maturare. Il film è un gioco divertente che poi diventa qualcosina di più serio, senza prendersi troppo sul serio, ma facendolo in maniera seria. Tra l'altro è piaciuto talmente tanto a Hollywood, in particolare a Steven Spielberg, che il film diventerà per lo stesso regista Delivery Man, girato con Vince Vaughn, che sarà un remake sostanzialmente quasi identico all'originale e che probabilmente uscirà nei prossimi mesi. È un film tra i più riusciti, invece, ecco, questo degli ultimi mesi. E allora, questo era Starbuck, 533 figli e non saperlo, il titolo completo italiano. A questo punto noi giochiamo con la prima traccia del DVD Game di oggi, perché chiaramente non manchiamo di farvi vincere una Blu-ray fantastico di film molto molto molto recenti. Cominciamo a sentire la prima traccia. Tutto è cambiato dopo New York. Oh, davvero, Ben? Non me ne ero accorta, affatto. Vivi esperienze al limite. E poi tutto finisce senza una spiegazione. L'unico motivo per cui non ho avuto un crollo è perché ti sei trasferita da me. Allora, avete già indovinato di che film si tratta? Diteci, iscriveteci alla Rosa Purpurea @radio24.it il titolo e il vostro indirizzo di posta privata per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e anche per chi ci ascolta la domenica, quindi cominciate subito, più tardi avremo comunque altre due possibilità. Boris, ce la fai in un minuto a raccontarci perché vedere o perché non vedere Infanzia Clandestina, che è un film argentino che ha, tra l'altro, è stato un po' l'evento del Festival del Cinema dell'Africano e del Sud America che si tiene a Milano in primavera, la storia di un ragazzino di 12 anni che è costretto a vivere sotto false identità e costretto a portare sulle spalle il peso e la responsabilità della clandestinità militante dei propri genitori durante la dittatura argentina nel 79. Ce la faccio solo se i nostri ascoltatori mi promettono che vanno a vedere Infanzia Clandestina, perché un minuto è troppo poco per parlare qua veramente di uno dei film più belli che io ho visto negli ultimi anni, perché è un film commovente, divertente, empatico, che ti fa innamorare. C'è questo ragazzino, se non sbaglio di 12 anni, pazzesco sia come attore ma anche come personaggio, che è costretto dall'ingiustizia della vita e della politica a vivere in maniera clandestina, porta anche un nome non suo e di fatto vive una vita non sua. Su di lui c'è la responsabilità di non svelare che la sua è una famiglia di dissidenti che opera contro la dittatura argentina, ma arriva la vita, arriva quello che possiamo chiamare il tempo delle mele, arriva l'amore, arriva soprattutto la voglia di libertà, e non c'è niente di più politico dell'amore e dell'inquietudine adolescenziale di qualcuno che vuole essere libero. Di quel tipo di ribellione, che è una ribellione tranquilla, che non a caso viene intuita anche all'interno della famiglia e viene persino appoggiata in una sorta di opposizione all'opposizione, di una opposizione amorevole all'opposizione politica da uno zio bisnacco. È allo stesso tempo una bella commedia familiare, una bella commedia sentimentale e un grandissimo film politico. Io mi sono commosso e mi sono divertito, e ormai non capita più tanto spesso, quindi veramente vale la pena. È di sicuro il film della settimana, ma lo sarà anche delle settimane a venire, penso. Voglio presentarvi il vostro nuovo compagno di classe, Ernesto. Che è successo? Ce ne andiamo per qualche giorno, per sicurezza. Perché? Maria. Con chi stavi parlando? Con Maria, la mia fidanzata. Cosa volete che faccia qui? E insomma, grandi contenuti, devo dire, anch'io sposo in pieno la visione di Boris. È stato un film che, quando ho visto appunto lo scorso mese di aprile, mi ha davvero molto molto coinvolto e molto scosso. Infanzia clandestina nei cinema italiani, andatelo a vedere perché ne vale davvero la pena. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpura, dicevamo cinema italiano, anche cinema italiano in questi 9 nuovi titoli che sono arrivati nelle sale cinematografiche italiane. Ce ne sono tanti e chiaramente cerchiamo di raccontarvi il più possibile, però insomma non possiamo eludere l'esordio alla regia di Bruno Oliviero per il film che si intitola La variabile umana. Personalmente ero stato proprio all'apertura del set a Milano di questo film, che è tutto girato, ambientato in una Milano fotografata in maniera davvero notevole, protagonista assoluto Silvio Orlando in un ruolo di quelli belli proprio che piacciono, questo ispettore un po' consumato, anche magari un po' impigrito dalla professione, dai tanti anni di lavoro, che si trova suo malgrado di fronte a un caso a cui dovrà veramente partecipare perché coinvolge, e questo lui chiaramente non se l'aspettava, niente meno che sua figlia. Sentiamo il trailer. Ho bisogno di lei, Monaco. Dobbiamo fare presto, ci sono pressioni da tutte le parti. Non vuole sapere chi ha ucciso suo marito. Stavano sparando delle bottiglie. La ragazza dice di essere sua figlia. Ma è una ragazzata. Mi ha rubato la pistola. Ma guarda che eri tu che dovevi custodirla meglio. I buoni non vincono mai, papà. Non è così? Forte io ti sento. E allora, cast con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli, Renato Sarti e l'esordiente, ma molto brava, Alice Raffaelli, per La variabile umana, film che ha rappresentato l'Italia in qualche modo al Festival di Locarno. Boris, cimentarsi con il noir, perché qui siamo nel noir più puro e più vero, non è mai impresa semplice, perché il noir è un genere di sfumature, di toni, più che di fatti. Com'è andata la prima prova di Bruno Oliviero? Sì, tra l'altro non lo è facile, soprattutto in un cinema italiano moderno che sembra averlo sostanzialmente accantonato come genere, quindi la scuola del noir si è in qualche modo atrofizzata. La prima prova nel cinema di finzione di un grande documentarista come Bruno Oliviero a me è piaciuta molto, soprattutto sotto il profilo della regia. Trovo che fosse un film decisamente perfettibile a livello della scrittura, in certi momenti in cui forse bisognava essere molto corposi si è invece molto esili. Un paio di svolte di sceneggiatura potevano essere trattate meglio, però il film è davvero interessante, è davvero bello per l'atmosfera che sa creare, per la Milano che sa raccontare, per questa indagine che sostanzialmente si fonda su quanto il comportamento privato può essere distante dall'immagine pubblica di un uomo, e in un momento come questo in Italia raccontare questo è anche sociale, è anche politico, non è solo artistico e cinematografico. Silvio Orlando fa una delle sue più belle interpretazioni, finalmente ho l'impressione che lui abbia la consapevolezza e la voglia di sfidare se stesso, e Bruno Oliviero è stato molto bravo a capire che poteva fare questo investigatore stropicciato, deluso dalla vita, amareggiato, addolorato al meglio, e soprattutto poi è anche un film molto intimista, profondamente analitico per quanto riguarda le psicologie dei personaggi. In questo a me ho amato moltissimo un dettaglio che è il momento di un arresto in cui un solo sguardo di Battiston apre un mondo su tutto quello che prova quel personaggio, che è un personaggio secondario, ma che non è un personaggio trattato male. E quindi devo dire, la variabile umana è veramente un bel esperimento riuscito, sicuramente perfettibile, ma può aprire un canale su cui molti altri registi italiani dovrebbero andare, perché il noir è una grande opportunità, oltre che un bel genere. E allora, la variabile umana nei cinema italiani, abbiamo ancora un paio di minuti per le novità di questo grande rientro, e del resto io non voglio, così come giustamente ha fatto Boris prima, che ha sottolineato Infanzia clandestina, non voglio non parlare della prova immensa di Terence Stamp e Vanessa Redgrave insieme alla bellissima Gemma Arterton nel film Una canzone per Marion. Sentiamo il trailer. Ho iscritto ad un concorso il nostro gruppo. Oh, ciao Arthur. Che ci fate voi qui? Stiamo per cantare. Meglio trovare qualcuno che lo sappia fare, allora. Dammi il tuo rock and roll. È un buon inizio. Pensa, canterò un assolo. Soltanto tu? È questo l'assolo, no? Marion sta male. Mi ha chiesto di venire. Ti sei divertito? No, questo non sono io. Lascia che gli altri vedano chi sei tu. Ti va di cantare? Certo. Sei un vero outsider. A costo di perdere la faccia, canterò questa canzone. E allora, una canzone per Marion. Arthur e Marion, appunto, una coppia di pensionati londinesi. Lei solare, va a cantare, si diverte con il gruppo, sa stare insieme agli altri, anche agli altri anziani, sotto la guida della capocoro, appunto, Gemma Arterton. Lui, cupo, sempre un po' burbero, ma l'avvento, il momento della malattia di lei, porterà lui pian piano a farsi quasi invadere dalla personalità di lei, che sta quasi svanendo, e a diventare lui una sorta di prolungamento di Marion. Boris, questo è un film che mi ha veramente commosso, cioè al di là delle prove, al di là dell'esame tecnico del film, grandi attori che sanno anche mettersi a disposizione della macchina da presa del regista Paul Andrew Williams, ma una tematica trattata con una finezza, una dolcezza e senza però stucchevolezze di genere davvero uniche, quindi un film anche questo, nel mio caso, assolutamente da andare a vedere. Sì, trovo meraviglioso che in una società che accantona regolarmente la terza e la quarta età, senza alcun rispetto, il cinema invece abbia la sensibilità di raccontarla. Negli ultimi anni c'è questa attenzione verso un'età che prima non veniva nemmeno calcolata dal cinema, che è invece foriera di tantissime possibilità narrative oltre che emotive. Sono d'accordo con te, secondo me il film ha un solo difetto, quando non c'è Vanessa Redgrave in qualche modo si sgonfia, però allo stesso tempo è la storia di un amore meraviglioso che porta qualcuno ad annullarsi. A me ha ricordato Away From Her, dove l'annullamento avveniva in un altro modo, cioè arrivava una malattia, l'Alzheimer, e lui accettava il fatto che lei si dimenticasse di lui per l'amore che aveva. Qui in fondo lui si dimentica di se stesso, e trovo che sia la più grande prova d'amore, e non ci si può non innamorare di un film che parla così bene d'amore. E beh, allora, canzone per Marion, noi chiudiamo qui la enorme mole di informazioni sulle novità in sala, del resto una settimana, come abbiamo detto, molto ricca, e giochiamo ancora insieme, giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ottima osservazione. Cosa gli è successo? Gli eventi. Io l'ho costruito, io mi prendo cura di lui. Lo riparerò. Come un meccanico? Sì. Un adulto, un bambino, qualcosa da riparare, la rosa purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Chiaramente settimana prossima vi faremo sapere chi sono i vincitori, più tardi però avremo l'ultima possibilità. Oh, apriamo la parentesi Venezia, Boris, perché giustamente abbiamo detto tanto delle novità in sala, quelle che tutti gli italiani che ci ascoltano possono trovare più o meno facilmente, purtroppo guai della distribuzione, nei pressi di casa propria, ma insomma tu sei lì al Lido, il festival si è aperto da qualche giorno, le prime star, Bullock, Clooney e poi via via, anzi quello delle star è stato uno dei temi che si sono un po', sui quali si è un po' polemizzato, no? Anche se chiaramente adesso sentiremo anche Alberto Barbera, insomma il ruolo dei festival forse negli anni sta anche un po' cambiando, a far vetrina ci pensano i vari junket in giro per il mondo che intanto ci sono tutto l'anno, ma insomma da queste prime battute che festival di Venezia ti sembra? Ma io sono molto entusiasta, devo dire. Sono giorni di inizio festival molto soddisfacenti. Credo per la prima volta dopo tanti anni, c'era stato in qualche modo una piccola eccezione, ma neanche tanto, per Lady Di Marzio. Il film d'apertura è un film entusiasmante, parlo di Gravity. Alfonso Cuarón proietta nella fantascienza l'eterna lotta tra l'uomo e se stesso, di fatto, anzi in questo caso tra la donna e se stesso, perché Cuarón è uno dei registi più femministi della storia del cinema, e c'è una grande Sandra Bullock, un George Clooney irresistibile nella parte che più gli si addice, quella del cialtrone alla Danny Ocean, ma in questo caso è un astronauta che riesce a risolvere tutto spesso con una battuta, e qui c'è tutto. La cosa bella di questo film di fantascienza è che è una dimostrazione di come un grande regista possa saper giocare col cinema, perché lo conosce a menadito, e che quindi può andare da Scott a Duncan Jones, da Kubrick a Michael Bay, senza perdere mai di credibilità. Quindi film entusiasmante, film bellissimo con cui iniziare la mostra, film anche con delle star, quindi quando poi si fanno un certo tipo di analisi forse bisognerebbe stare attento. Sare anche Mia Wasikowska, che con John Curran fa Trex, film in concorso, davvero molto bello, un film, una sorta di Into the Wild al femminile, di una ragazza rimasta orfana di madre, che cerca se stessa in un viaggio impossibile, in una traversata di un deserto con quattro cammelli. C'è ancora più profondità che rispetto al film di Sean Penn, c'è molta poesia, c'è una grande emotività, c'è questa attrice che fino adesso aveva, insomma, un po' zoppicato, forse per un'inespressività naturale dovuta a dei lineamenti, insomma, particolarmente diafani, e che però qui invece riesce a dare il meglio, anche grazie a un regista che fa un po' quello che fa Cuarón, ma in una situazione totalmente diversa. Cuarón sfida lo spazio infinito dell'universo, Curran con i piedi per terra sfida lo spazio infinito del deserto, e quindi anche in questo modo i film si parlano. C'è stato il film di Emma Dante, Via Castellana Bandiera, anche qui una donna, in particolare Elena Botta, ruba l'attenzione con un'interpretazione muta ma fantastica. Qui però Emma Dante, cioè la regista italiana, forse non ha il coraggio di andare a guardare l'orizzonte lontano, l'orizzonte che si perde nel cielo, ma preferisce chiudersi in una strada, quasi in un vicolo cieco, e temo che poi alla fine si sia chiusa in un vicolo cieco sul serio, anche narrativamente, visivamente. Non si è data tutto quel coraggio e quell'indipendenza che invece dimostra a teatro. E in questo senso è un po' deludente. Però appunto è un festival, devo dire, molto donna, penso anche a Con un fiato sospeso, dove c'è Alba Rohrwacher, come c'è d'altronde anche in Via Castellana Bandiera, film di 35 minuti, film fuori formato, uno straordinario racconto di Costanza Quadriglio che vorresti che durasse due ore, ma che in 35 minuti comunque ha la dignità di un grande film, di un, non esito a dirlo, un capolavoro. Ecco, se Barbera ha fatto una cosa buona è aver preso da tanti generi, ma persino da tanti formati, cioè non è rimasto schiavo di un'idea, di un'etichetta di cinema, cioè se è cinema, se è immagine, se è racconto, può durare 10, 20, 30, un'ora o due ore e va benissimo. Beh, allora poi ci riaggiorneremo ovviamente settimana prossima per fare più un bilancio complessivo. Dicevi di Alberto Barbera, noi lo abbiamo intervistato per farci raccontare proprio il futuro un po' di questo festival, ma non di questo festival, dei festival in generale. Dicevamo prima, ormai le star tutto l'anno sono a Roma, Parigi, Berlino, Londra, New York, Los Angeles, a fare junket, a lanciare i film, e quindi in questo senso forse è sempre più difficile quando si dice ci sono poche star quest'anno a Venezia o magari in misura minore a Cannes o magari a Berlino. Il problema è che non sono più quei festival, quei grandi festival, l'unico momento in cui far esplodere i fuochi d'artificio, al di là della concorrenza con Toronto, delle date che sono praticamente le stesse di Venezia. Però ci dice Alberto Barbera, i festival paradossalmente proprio per questo hanno un futuro. Sentiamo. Secondo me diventerà sempre più importante, non è un paradosso e neanche una provocazione. In realtà noi viviamo, lo sappiamo tutti, in un mondo dominato e ossessionato dall'informazione. Siamo bombardati quotidianamente da una quantità di informazioni che il nostro cervello non riesce a recepire, no? Informazioni sui film finiti che stanno per uscire, sui film che sono in uscita, sui film che devono ancora essere realizzati, sui film che soltanto si stanno pensando e ipotizzando e che magari non si faranno mai. Quindi per lo spettatore diventa davvero difficile muoversi all'interno di quello che in semiotica si chiama il rumore, c'è un rumore di fondo altissimo, e orientarsi in questo marasma di informazioni è difficilissimo. Allora il ruolo che hanno i festival, che avranno sempre di più in futuro, sarà quello di essere una guida, una sorta di guida. Noi siamo un osservatorio privilegiato, vediamo tantissimi film in pochissimo tempo, ne vediamo 3.000, ne selezioniamo 50 e diciamo a tutti, ai giornalisti, al pubblico normale, a quelli che ci seguono da casa, che ci guardano alla televisione, eccetera, guardate, questi sono i 50 film che vale la pena di vedere, questi sono i 50 autori che bisogna seguire, i talenti emergenti che diventeranno i registi di domani, ecco, una funzione di guida e di orientamento all'interno di questa giungla informativa che è sempre più confusa. Insomma, speranze nelle parole di Alberto Barbera. Noi ringraziamo Boris Sollazzo per essere stato abbondantemente con noi in questa puntata del Grande Rientro e ci sentiamo ovviamente la prossima settimana. Ciao Boris. Grazie a te Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpura è la quarta parte, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, fra un video e televisione. Cominciamo proprio con i palinsesti in chiaro, i film gratis da vedere in televisione, ci sono sempre tanti grandi spunti, noi li raccogliamo insieme agli amici del settimanale Film TV, e con noi come da tradizione Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un ben ritrovato ai radioascoltatori. Allora Giulio, quando io nei palinsesti vedo The Wrestler, lo consiglio sempre. Magari qualcuno dirà, ma l'hai già fatto l'altra volta? Sì, l'ho fatto, perché chi non l'ha visto lo deve vedere e chi l'ha visto lo deve rivedere. Succede anche questa domenica. Esatto, The Wrestler su Rai 5 alle 23:20 di domenica, in piena Venezia. Parliamo del film che vinse il Leone d'Oro a Venezia 65, 5 anni fa. The Wrestler è la storia di un lottatore in decadenza, sempre più sfatto e malato nel corpo, che cerca una seconda opportunità sentimentale con una donna e con la figlia. Darren Aronofsky è uno che da sempre indaga i mondi chiusi, autistici, grotteschi ma anche tragici, di personaggi ai margini e sempre al limite. E qui si aggrappa al corpo sformato di Mickey Rourke e ci restituisce il suo film più profondamente americano, incentrato sul mito della redenzione, di una seconda chance, e un film che è anche ovviamente una critica toccante a questo mito, un ritratto umano duro e commovente, umanissimo ma assolutamente senza sconti. E allora domenica 1 settembre Rai 5, 23:20, non fatevi scappare The Wrestler, così come un grande classico che ritorna e che è sempre il caso, anche in questo caso, di vedere o rivedere, ed è una delle perle del maestro Bergman, Fanny e Alexander. Sì, Fanny Alexander sulla F alle 21:40 di martedì sera. Lo diciamo subito per chi non lo sapesse, un capolavoro imperdibile, girato in 5 puntate per la TV e poi condensato in una versione cinematografica di 197 minuti, che è quella che vedrete sulla F. È un lavoro profondamente autobiografico, una sorta di film testamento per Ingmar Bergman, sulla cui figura tra l'altro sta passando a Venezia un bel documentario in questi giorni. È un film che attraversa anni ed epoche, incentrato sulla vita privata di una famiglia di teatro, le cui vite sono spettacoli in cui tutto e davvero tutto può accadere. È un Bergman anche più riconciliato, i cui fantasmi non fanno più tremare d'angoscia ma sanno commuovere di serena e placida tenerezza. E allora l'appuntamento con Fanny Alexander è martedì 3 settembre sulla F alle 21:40. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco e buona settimana. E allora, questi consigli sempre interessanti di Film TV di Giulio San Giorgio. Noi abbiamo la terza e conclusiva, ultima traccia del film misterioso di oggi. Il pericolo è imminente e devo proteggere l'unica cosa senza la quale non vivrei. Sei tu. E le mie armature sono... macchine. Sono parte di me. Una distrazione. Probabile. Beh, le mie armature sono parte di me, potevamo anche mettervi titolo, regia e protagonisti, però insomma siamo alla terza clip, in quella in cui siamo tutti un po' più buoni di solito, quindi scriveteci alla Rosa Purpura, @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere il Blu-ray di questo film, uno per il sabato, uno per la domenica. Noi adesso risolviamo il game di 7 giorni fa, poi vi facciamo un elenco magari un po' lungo, però vogliamo annunciare pubblicamente i vincitori dei game di questa estate. Andiamo. Festeggio con te quando le critiche sono buone, piango per te quando sono cattive. Tutte le donne sono nate libere. Persone che mi guardano come se fossi invisibile, perché tutto ciò che vedono è il grande, glorioso genio. E allora, il grande e glorioso genio era niente meno che Hitchcock. Il film della scorsa settimana era appunto il film, il biopic su Hitchcock. Lo hanno indovinato e vinto per primi Maria di Giandomenico di Chieti e Federico Contu di Carbonia. Saranno loro a riceverlo a casa. Ma, come dicevo, durante le puntate estive avevamo giocato con parecchi film. Allora, Cacciatori di Giganti, uno dei casi rari della storia della Rosa Purpurea, l'ha vinto solo una persona, perché l'ha indovinato solo una persona, ovvero Daniela Bertazzoni di Padova. Brava lei. Viaggi di nozze lo avevano vinto Sandro Angelini di Ascoli Piceno e Claudia Cattaneo di Fontenuova, provincia di Roma. Anna Karenina, bellissimo, lo hanno vinto Paolo Arizzi di Bergamo e Dario Bonifacio di Mozzo, provincia di Bergamo. Evidentemente a Bergamo Anna Karenina c'ha un suo successo. E Viva la Libertà, uno dei film italiani più belli della scorsa stagione, lo hanno vinto Marco Ragonesi di Legnano e Marco Faglia di Macerata. Quindi questi i vincitori della lunga estate. Ma noi torniamo invece a Hitchcock, torniamo al game della scorsa settimana, ci facciamo raccontare contenuti e qualità della uscita a un video dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, da 20th Century Fox Home Entertainment l'edizione on video, DVD e Blu-ray, in particolare la versione in alta definizione è di altissima qualità, resa per le immagini del tutto simile a quella della sala cinematografica, audio DTS multicanale in italiano di pregevole fattura, sicuramente superiore a quello DTS ad altre soluzioni in inglese. Sono tanti gli extra per approfondire la lavorazione, tra cui segnalo un focus sull'attore Anthony Hopkins dietro le quinte, curato dal regista, la storia, il cast, la colonna sonora di Danny Elfman, e c'è persino un capitolo a ricordo del maestro Alfred Hitchcock. E allora questo era il nostro game della scorsa settimana, appunto Hitchcock. Andiamo invece alle novità in un video che troverete nelle rivendite in questo periodo, cominciando da una coppia il cui connubio non può che incitare, diciamo così, all'azione estrema. John Woo alla regia, Jean-Claude Van Damme davanti alla macchina da presa. Il film è senza tregua. L'uomo che abbiamo cacciato la settimana scorsa. Perché non ci dici il suo vero nome? Stronzo schifoso. Binder, Douglas Binder. Non è quello che avevamo scelto, non è vero? Non ho potuto procurarvi l'uomo che volevate. Volevate un veterano ex combattente. Così vi ho mandato Binder, aveva più medaglie. Aveva dei talenti che adesso fanno domande. Ex veterano, Binder finisce ucciso da un gruppo criminale che a New Orleans preleva senza tetto, trasformandoli in obiettivi di mortale caccia all'uomo a uso e consumo di pazzi facoltosi. Desiderosa di fare chiarezza sulla morte del genitore, c'è Natasha, aiutata da Chance, marinaio esperto di arti marziali, che si ritroverà contro l'intera banda. Senza tregua è un classico action movie con un Jean-Claude Van Damme in gran spolvero, opera oltremodo importante dato che è la prima, diretta nel 1993 dal maestro cinese John Woo, in trasferta negli Stati Uniti dopo il passaggio di Hong Kong alla Cina. Dopo il DVD, l'edizione Blu-ray Universal, in alta definizione, di buona qualità, c'è qualche momento in cui il contrasto risulta appiattito, forse per il probabile impiego di filtri digitali. Dignitoso l'audio DTS due canali in italiano, sicuramente migliore quello DTS ad altre soluzioni in inglese. Non ci sono extra, ricordo che il film è presentato nella sola versione cinema di 97 minuti, mentre per i circuiti clandestini circola un truculento montaggio di 118 minuti, all'epoca bocciato dalla produzione. E che magari era il caso, come dire, di non clandestinizzare e buttare dentro questa versione on video. E vabbè, noi andiamo avanti invece con un altro consiglio, un altro film invece di questa stagione, che si è andata chiudendo da pochi giorni, ovvero Upside Down. E qui abbiamo parlato prima con Elysium, no? Ancora una volta il mondo cattivo e quello buono, i due mondi lontani, qui c'è il mondo di sopra e il mondo di sotto, Upside Down. Per capire la mia storia dovete conoscere le tre leggi fondamentali della doppia gravità. Tutta la materia, ogni singolo oggetto, subisce la gravità del mondo da cui proviene e non dell'altro. Per ingannare la gravità è possibile compensare il peso di un corpo con la materia del mondo opposto, la materia inversa. Il problema è che dopo alcune ore il corpo a contatto con la materia inversa brucia. Due pianeti contrapposti e talmente vicini da essere uno una volta stellata dell'altro. Il pianeta cosiddetto di sopra ospita una popolazione benestante, arricchitasi sfruttando senza ritegno le risorse energetiche del pianeta di sotto, dove la vita è dura, infelice e gelida. L'amore tra Adam e Eden, che vivono su pianeti opposti, contribuirà a sovvertire regole agli antipodi, non solo sociali, ma anche fisiche. Il regista Juan Solanas mette in scena un'amara riflessione sulla globalizzazione all'interno di una bella storia d'amore tra incredibili e suggestive scenografie contrapposte. da 01 Rai Cinema, la pubblicazione è un video di cui consigliamo l'edizione Blu-ray alta definizione, capace di restituire tutto il fascino scenografico dell'opera, audio DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambe tracce di pregevole qualità, e come extra c'è un interessante making of di circa mezz'ora. E allora, grazie Claudio, questo era Upside Down, appuntamento la prossima settimana con i consigli on video. Ciao, a presto. E allora, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, alla fine della puntata del grande rientro della Rosa Purpurea. Ci rigettiamo di nuovo nel clima della Mostra del Cinema di Venezia, di cui ci racconteremo e vi racconteremo tutto la prossima settimana, fra 7 giorni, come sempre qui il sabato alle 18 e la domenica alle 15. Grazie a Giorgio De Luca e Laura Faggin che ci hanno aiutato in redazione, a Gianmarco Ferronato che invece ha schiacciato i tasti qui della console megagalattica di Radio 24 qui davanti a noi. Appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisti.